ti guardo quando sogni e danzi sola a casa, festosa nelle tue coreografie di Nureyev, indescrivibile disegni nell'aria con la mano piccola, quegli ampi cerchi che non vogliono cadere. Sorridi per un attimo e mi pensi che tenerà, che vivo quei momenti intensi accanto a te. Sereni, cose piccole vissute insieme, momenti che la vita sfugge dietro al caso. Io ti voglio con me tutto il tempo che rimane, e con i tuoi cerchi nell'aria io mi voglio arrotolare. Dammi il tuo sguardo, dammi la tua mano ancora, e non seguire la vita che sfugge e che va via. Ascolta amore mio, io ti penso ora, che nell'aria vibra qualcosa che ricorda te. Io ti vedo nei miei sogni, ti vedo nello specchio, ti vedo ovunque, ovunque ti cerco, e ovunque sento il tuo profumo ed il tuo respiro ancora. Vieni amore mio, io sono qui e ti voglio toccare ancora, voglio vedere i tuoi occhi che mi guardano e che mi cercano e che vogliono amore, l'amore mio. Traslucida l'immagine, di sfondo si colora e prende i chiaroscuri spenti di un caffè. Ti aggiri tra le stanze in cerca di poco da fare, e pian piano scopri che in silenzio cerchi me. Spegni allora la luce, i chiaroscuri si dissolvono, e tante immagini che danzano leggere attorno a te. Chiudi quegli occhi amore, non guardarle più per ora, pensa all'immagine che sola porta dritta a me. Davvero amore mio, mi hai ammaliato, ed ora che nell'aria vibra qualcosa che ricorda te. Io ti vedo nei miei sogni, ti vedo nello specchio, ti vedo ovunque, ovunque ti cerco, e ovunque sento il tuo profumo ed il tuo respiro ancora. Vieni amore mio, io sono qui e ti voglio toccare ancora, voglio vedere i tuoi occhi che mi guardano e che mi cercano e che vogliono amore, l'amore mio. Vieni amore mio, io sono qui e ti voglio toccare ancora, voglio vedere i tuoi occhi che mi guardano e che mi cercano e che vogliono amore, l'amore mio. Vieni amore.